Benvenuti ancora oggi e ancora qui con noi su Radio Disturba Popolo. Qui è Fabio e dall'altra parte, e forse riusciremo anche a farvelo vedere, c'è Antonio. Ciao a tutti, ciao Fabio. Iniziamo subito a bomba come al solito e partiamo con la sigla. Allora Antonio, benvenuto a Radio Disturba Popolo. Domanda a diritto classica di Radio Disturba Popolo. Antonio, chi sei e cosa fai nella vita? Ma io sono una persona normale, con sogni abbastanza ambiziosi, paure normali, e una persona comune sostanzialmente. E mi diletto nella vita come consulente di sicurezza informatica. Oh, bello, bello. Un mestiere interessante. Di che cosa si occupa il consulente di sicurezza informatica? Ma in realtà di tutto e niente. Tu devi considerare sostanzialmente questo. Stiamo facendo questo tipo di lavoro in questi anni, in questi ultimi decenni, speculando sul fatto che l'essere umano non sempre è in buona fede. Infatti, se ci si potesse fidare del prossimo, se ci fosse un po' più di empatia e di buon senso nel mondo, non servirebbe una figura professionale tipo la mia. Infatti, molto spesso con i tesisti in azienda chiacchierando emerge proprio questo aspetto. Dimmi dei tre punti più di forza, di debolezza di questo lavoro, cosa andresti, se avessi la bacchetta magica, cosa risolveresti, no, nell'ambito della sicurezza informatica? Io rispondo sempre, beh, toglierei la malafede della gente, così non dovremmo più lavorare. Questo è dal punto di vista filosofico. Dal punto di vista tecnico semplicemente si tratta, poi ci sono tante sfumature, il mio campo specifico è la gestione controllata degli accessi e la protezione dei perimetri per quanto riguarda, cioè dagli attacchi informatici. Ho capito. È un settore ancora più specifico. Combatti contro gli hacker per noi fuori dal mestiere? Diciamo che prevenire è meglio che curare, quindi in teoria è meglio mettere in campo tutta quella serie di contromisure per evitare che poi ci possano essere attacchi, perché quando ti hanno attaccato è diciamo finita. Che è un po' troppo tardi, sì. Ok. Io, Antonio, ho voluto organizzare questa intervista per parlare un po' in generale di quello che alcuni ormai si chiedono da mesi, sentendo parlare di questa ChatGPT e di tutte queste intelligenze artificiali che sembrano uscite a bomba, a cannone, subito dopo la pandemia. E si chiedono, ma che cazzo è sta roba? Cioè, perché tutti, sì, è un programmino dove fai delle domande e ti rispondono anche bene. E ragazzi chiedi, sì, ci scrivo i temi io con quello, no? E quindi, Antonio, che cos'è un IA? E in che senso è un'intelligenza artificiale? Cioè, è un'intelligenza che ragiona come un essere umano? Ha le capacità cognitive di un essere umano? O invece c'è un processo dietro? C'è una persona o più persone come te che hanno dato degli input a questa intelligenza per ragionare così? Allora, questa è una bellissima domanda e la si può approcciare sotto diversi punti di vista e ci proviamo, insomma. Allora, io non sono un esperto di intelligenza artificiale, è un campo che nell'accademia e nell'università si sta affrontando sempre di più, però io entro in campo semplicemente dal punto di vista di analisi a posteriori di tutto questo, di tutto questo sistema. È chiaro che se tu parti dalla storia dell'informatica, okay, tu, dai primi computer, i primi programmi, i primi software, e a livello concettuale noi li vediamo come delle scatole nere alle quali tu fornisci un input e da lì, in qualche modo, con qualche magia nera, qualche rito voodoo, esce un output. E da qui non scappiamo. possiamo raffinare, possiamo fare tanti giri in modo da confondere le idee, però siamo sempre a parlare di una funzione, matematica o meno, o che si può suddividere in alcuni compiti e che nelle quali c'è sempre un input e un output. Ecco, poi cioè ci spostiamo un attimo dalla definizione, diciamo, pura e tecnica. È chiaro che se tu parti invece da una base di psicologia, di intelligenza umana, è chiaro che è un qualcosa di un po' diverso. Perché nell'umano noi abbiamo questa capacità straordinaria o meno, perché negli ultimi anni ci siamo È un po' anche fatti sciamata, spesso dici. delle. Eh sì, però. L'essere umano dov'è che ha quella scintilla animica, dai, esoterica in più? Sul fatto che se tu prendi una linea temporale e ti posizioni in un determinato punto, ok, ti viene un'idea, elabori un pensiero, fai anche un'operazione matematica, comunque, qualsiasi cosa che ti. Ma rimaniamo nell'ambito creativo. Se ci spostiamo in là, nella linea temporale, tu sei sempre te stesso, ma a livello cognitivo, no? Hai convertito un po' di sostanze chimiche in altre sostanze chimiche e hai prodotto un qualcosa che non c'era prima. Ecco, Ok. questo che è l'elaborato, l'idea del cazzo, mettiamola così, finale. Sì. E questo è un po' quello che fa l'umano. L'intelligenza artificiale invece non funziona così. Ok. L'intelligenza artificiale è artificiale, è una presa in giro, se vogliamo, sì, diciamola così anche in maniera un po' provocatoria, è una presa in giro, è il clown che mima, è il mimo appunto che fa questo esercizio di simulare, l'attività dei neuroni. E Ok. l'hanno elaborata proprio così. Ah, ma una domanda. Si dice tanto che queste intelligenze artificiali, soprattutto usate nella medicina per generare sequenze mRNA o comunque utilizzate per la creazione di farmaci, riescono a imparare dai loro errori. È veramente così? O comunque, come dicevi prima, un software ben programmato, comunque con dietro un umano che ha creato una sequenza che porta questo apprendimento. Anche qua possiamo stare a parlarne veramente per ore e il bello è che non avremo una risposta univoca, perché dipende dal professionista con cui tu ti interfacci. Dal punto di vista medico, nel caso specifico delle sequenze di DNA, non serve nemmeno scomodare un'intelligenza artificiale, perché basta un algoritmo. La Ok. maggior parte delle tecniche che sono utilizzate oggi per ricavare le sequenze di DNA di un nuovo microorganismo, di un nuovo patogeno, una roba del genere, sono comunque algoritmi matematici deterministici che si basano sempre su alcuni input. Ti faccio un esempio: quando è stato se sequenziato SARS-CoV-2, non è Sì. stato come dire, ricavato tutto a livello chimico. Cerchiamo di semplificare, tanto a Sì, livello la tecnico non sequenza, arriveremo mai al dibattito. tu intendi la sequenza di genio, comunque la catena non è stata tutta Esattamente. sintetizzata tramite la chimica, bensì si è utilizzato. Esatto, un algoritmo. Ok. Sostanzialmente gli si è detto: noi sappiamo, perché te lo diciamo noi, che questa roba si comporta come la SARS del 2003. Quindi tu analizza questo insieme di liquido prelevato dai polmoni dei pazienti malati e dove trovi dei buchi ci inserisci i pezzi di quello che è già noto. Questa Ok. non è una scoperta, questo è un artificio col quale tu hai già diciamo, un bias, per dirla all'italiana, di un certo tipo e stai semplicemente creando una tua realtà e il computer non può fare altro che prendere questo input e tirarti fuori qualcosa. Tu non puoi, poi non è confermato. La stessa cosa è il primer che viene utilizzato nei tamponi che poi si deve legare virtualmente alle molecole. La stessa cosa. Ok. Viene generato tutto al computer. Infatti noi abbiamo avuto in diversi team negli Stati Uniti che hanno lavorato a RNA, tutto quello che vuoi, sieri e controsieri, basandosi su una sequenza tirata fuori dal computer. E quindi c'è con una probabilità anche di errore, perché stiamo parlando di organismi biologici, da un certo punto di vista, che si evolvono sotto costantemente, quindi c'è una buona percentuale di errori. Se poi Sì. mettiamo anche in conto che si è sviluppato sempre con la stessa sequenza, cioè quella partita che chiamano tutti la sequenza Wang, e tutti questi fantastici sceri multicolor, multifelicità e multidose, sono stati elaborati solo con quella sequenza. Non c'è più, cioè, loro ci dicono che ci sono degli aggiornamenti, ma alla fine delle finite, qua in Italia, quello che è stato riutilizzare le stesse dosi, se Mi non ci si ricorda muove. Bill Gates tutta questa situazione, no? Dove c'era il nuovo virus e lui ti dava l'aggiornamento Oh, dell'antivirus. fantastico, praticamente. Eh sì, un po' sì, ma guarda che a livello di banca dati dei sequenziamenti, che poi sequenziare comunque è un'attività costosa, non lo fanno tutti i laboratori, però a livello di sequenziamenti nella banca dati mondiale ci sono centinaia di migliaia di sequenze, perché questo ti fa capire proprio com'è difficile. Anche lo disse addirittura Cary Mullis, l'inventore della PCR, no? Sì. Che con adeguati livelli di amplificazione nel raddoppiare, Tutti no, erano il positivi. DNA, puoi far risultare positivo chiunque a qualsiasi cosa. Questo è un video ufficiale, non è che lo dico io perché di questo campo me ne intendo di meno, però basta Insomma, ormai. era una mazzetta di Stato per poter lavorare, o comunque un metodo coercitivo alla fine delle finite, perché possiamo definirle Ma così. su questo ne torniamo magari più tardi, Esatto, che è esatto. un capitolo a parte su tutta questa situazione. Ritornando a cannone su quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Ok, adesso abbiamo capito che più o meno c'è sempre dietro una persona, o comunque dietro un algoritmo, o comunque un professionista che ha dato degli input, o comunque una catena di input, o comunque una serie di programmi con cui l'intelligenza artificiale. Quindi è un po' una presa per il culo quella che ci viene detta, che le intelligenze artificiali sostituiranno alcuni lavori delle persone, o invece c'è un fondo di verità? No, su questo invece siamo abbastanza. Ma già sta succedendo. Ok. Quindi tu immaginati le catene di montaggio nelle fabbriche, le famose industrie 4.0. Ci sono degli ambiti dove in questo campo aiuta. E in realtà c'è, sai, questo. Io ho sempre pensato che l'innovazione. Ok, divago leggermente, ma giusto per far capire, non fosse altro che prendere degli elementi tecnici già presenti in natura o comunque già esistenti a livello di scienza e di tecnica, ricombinarli per manipolare o sfruttare un fenomeno fisico e ti ho confezionato una cosa nuova partendo da delle basi. Per farti un esempio, il jet della turbina, Sì. quando furono inventate le turbine per i jet, non era nient'altro che la combinazione di un compressore, di una pala meccanica, insomma di tutta una serie. Io poi di meccanica e di No, fisica conosco poco, questo è il mio però campo. capito, tutta roba che già era esistente, che è stata ricombinata per sfruttare il terzo principio della dinamica, La sostanzialmente. progettazione meccanica consiste in quello, cioè noi creativi a livello meccanico prendiamo già qualcosa, o comunque un'apparecchiatura che fa il suo mestiere, e cerchiamo di adattarla alla situazione nuova, cioè nulla, a dirla nel principio della termodinamica, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, ecco, cioè quella è l'idea. Però io Certo. pensavo che alcuni mestieri non potessero essere sostituiti, almeno che non, io la vedo un pochino così, ecco, cioè la mia visione è dire: ok, si usa questa scusa, o comunque questa minaccia, per poter ancora rosicare di più il potere contrattuale dei dipendenti, cioè soprattutto nelle classi più basse, e soprattutto con i lavori meno qualificati. Poi in realtà Per quanto mi riguarda, se tu mi dici la catena di montaggio può essere sostituita, ma classicamente anche sulla più grande e più bella etichettatrice che riesce a mettermi l'etichetta in maniera perfetta su ogni bottiglia, ci vuole lo stronzo che carica la, la carta, l'etichetta, che vada a regolare bene il nastro, che vada a regolare la tensione fisicamente. I sensori arrivano fino a un certo punto e poi puntualmente la macchina si rompe. Cioè, io la vedo sì, alcuni mestieri diventano più automatizzati, ma comunque la sostituzione dell'essere umano un piano più grande, un po' più grande, cioè secondo me fa parte di tutta questa propaganda liberal progressista che spinge verso il transumanesimo. E Ma quindi guarda, d'altra parte, sai cosa potremmo dire? Che in una società utopistica, noi potremmo tranquillamente lasciare svolgere la maggior parte dei lavori, anche usuranti, alle macchine e dedicarci ad altro. Il problema è che siamo in una società controllata da un'elite di ricchi che non hanno intenzione di diventare leggermente meno ricchi. È tutto qui. l'1% che domina il 99%, praticamente. Eh sì, e quindi anche se le risorse in realtà anche fossero sufficienti per tutti, e lo sono, anche in condizioni, se ci fosse possibilità, no, di stare tutti meglio, e c'è, di lavorare meno e di dedicarci al pieno sviluppo della persona umana, no, che ormai è diventata una bestemmia, niente, eppure siamo in questo tunnel, in questo vortice dove c'è sempre una routine, devi sempre svegliarti al mattino, cioè cos'è che ti dà l'energia per alzarti dal letto? Ah, Questa è una questo domanda è una. importante perché, Qualcuno sai. dice che è il lavoro che motiva il lavoro stesso. Io ho qualche dubbio, però lasciamo Eh sì, ma perdere. questa è la stessa cosa, sì, ma questa è la stessa cosa di quando ci dissero ce lo chiede l'Europa, no? Esatto. No, qualsiasi le riforme, e alla fine la metafora cos'è? È dell'uomo che vuole spegnere un incendio, va da un suo amico e il suo amico gli dice: buttaci la benzina. Io vado quindi con il mio secchio di benzina sul fuoco e lo butto, fa un ritorno di fiamma pazzesco. Quando vado a lamentarmi dal mio amico, lui mi dice: però sai perché non ha funzionato? Perché non ne hai messo abbastanza. Capito? Chiaro, chiaro. E tu sei in una trappola linguistica che spesso è la base, no, di quello che fa il sistema. E Sì, quindi non diciamo sei mai che in condizione di confutare. il linguaggio sotto questo profilo è un continuo. Chi controlla il linguaggio controlla anche il potere, la questione del soft power, chiaramente. E E soprattutto anche le IA fanno la stessa la cosa, eh. stampa, i media ci hanno insegnato pian piano a modificare il significato delle parole. Un'altra cosa, Antonio, visto che tu lavori nel reparto di sicurezza e informatico, ecco, noi adesso, oltre alla classica domanda che ci assilla, cazzo, ci rubano il lavoro, come direbbero in South Park, l'altra domanda è: ma sto cavolo di Green Pass e identità digitale sono in qualche modo collegati? C'è un'origine comune a tutti e due, e alla fine che cazzo gli serve sto maledetto sta identità digitale? Che piano possono realizzare una volta che sanno tutto? Ecco, perché molti non si sono ancora chiariti su questa cosa. E sinceramente anche io faccio fatica a collegare un po' tutto perché siamo tutti quanti, no, volenti o nolenti, immersi nella metafora anche abbastanza realistica della rana bollita, ma anche messa in pratica. Quindi noi non sappiamo fino in fondo qual è lo scopo finale, fino a quando tu ti volti, no, nella linea del famoso del tempo e ricolleghi tutti i puntini. Però possiamo fare Però dell'ipotesi. io, allora, ci sono anche qui diversi modi di approcciare la domanda. Io ti dico, nel momento, allora, c'è la parte filosofica, e questo lo dice pure Galimberti, quindi figurati, Aia, che aia. lui è la tecnica con due N. Tecnica. Praticamente lui dice, sì, lui dice, sostiene che la tecnica si autosostiene e si migliora in maniera fine a se stessa. Lui fa l'esempio. Come mai noi abbiamo ormai, una volta inventato l'atomica, abbiamo continuato a progredire, a costruire testate per distruggere Il mondo. scusami, per progettare 30.000 testate per distruggere il mondo diverse decine di volte, anche se in realtà basterebbe la prima volta con la prima testata fatta bene, insomma. Eppure noi abbiamo aumentato la produzione di queste trappole per topi, diciamo, giganti, tali per cui è possibile distruggere il pianeta decine di volte, ma non ne basta una. E allora che servono le altre 29? E questo è un po' un qualcosa, no, che si può collegare alla ricerca del potere e del controllo. E alla fine l'abbiamo visto, questo si collega anche con l'identità digitale e il Green Pass, secondo me, da questo punto di vista. Cioè, nel momento in cui tu, potere, hai scoperto che non ti succede niente se minacci, se impaurisci, se vai ad attuare dei ricatti velati nei confronti della popolazione, beh, il giocattolo è bello, eh. E allora a livello psicologico è difficile mollare un giocattolo che funziona così bene. Cioè, se avessero detto sostanzialmente, cioè, adesso, vabbè, facciamo un po' di cabaret. Non mi ricordo se a Catania o Palermo, comunque in Sicilia, nel 2020-21, io avevo letto una notizia che c'era un sindaco che aveva vietato di camminare sul lato o destro o sinistro della strada, Sì, non mi me ricordo. la ricordo anch'io questa. Perché ovviamente il virus cammina solo da una parte della strada, dall'altra no. Però la gente ormai era così impaurita, capito, che gli potevi dire anche andate in giro. Con il dito nel culo antivirale, avrebbero creduto anche a quello. Chiaro, chiaro. E Però quello è il problema. Quindi è un insieme di meccanismi e l'identità digitale si va a implementa questa logica, no, di controllo ossessivo-compulsivo con un aspetto in più, perché l'1% per dominare il 99% aveva bisogno della cosiddetta piramide. Adesso faccio il gesto della piramide, chiaramente mi accuseranno di essere massone. sì, tra le altre cose, mi Perché? sei scomparso in video, non preoccuparti, quindi non lo vedranno. Si auto, Ok, cioè, perfetto. addirittura Bill Gates ci sta censurando su una... Perfetto, perfetto. Ok. Quindi ti dicevo, l'1% deve, per controllare il restante 99%, ha bisogno degli scagnozzi di questa piramide, quelli che stanno subito sotto, che poi vanno a vessare quelli che sono subito sotto, che arrivano alle forze dell'ordine che rompono le palle a noi. Questo Sì. è lo schema. Ma una volta in cui tu hai un sistema magari anche controllato dall'intelligenza artificiale e dagli social, poi sono fantastici da questo punto di vista, Sì, ma cioè, approfondiamo dopo. se posso interromperti, sotto questo profilo gli articoli di Lutazzi sono molto illuminanti di come siano stati usati Facebook e tutti quei social come strumento di controllo dell'opinione pubblica e addirittura per manovrare le elezioni americane, addirittura. Questo non lo diciamo noi, ormai lo sanno tutti, tutti quelli che si vogliono informare, questo è vero. Però per dire, tu immaginati di sostituire tutti i galoppini, tutta la bassa manovalanza con una macchina che non ha bisogno di ferie, non ha bisogno di, non, che non va a fare ragionamenti dove vuole sovrastare il proprio creatore, eccetera. Non è soggetta a etica, giorni di ferie di riposo, eccetera. C'è un algoritmo che gestisce tutte le identità digitali e con una potenza di calcolo della Madonna riescono a capire se tu sei in regola, fai finta col bollo dell'auto, con le tasse che hai pagato, con le vaccinazioni che hai fatto, Chiaro. e in caso questa roba non fosse conforme al loro modello, diciamo, di buon cittadino, ti spengono. Anzi, non lo fanno neanche loro, perché non ci sarà neanche, no, l'anziano che va a lamentarsi in banca piuttosto che da qualche altra parte con una persona fisica, ci sarà una macchina e ti diranno: lei non ha i requisiti, fine, il messaggio è registrato. Da questo punto di vista è più comodo. Insomma, cioè, mi hai anticipato, cioè, perché quello che ti stavo per chiedere era proprio recentemente uscita una decisione del Parlamento, cioè una proposta di legge del Parlamento europeo per l'utilizzo, non si capisce bene, essendo stato il Green Pass utile, una piattaforma utile reattiva, citando proprio la proposta di legge, volevo utilizzare questo strumento per altri utilizzi non ben chiari, ecco, cioè, quindi c'è. Cioè, quello che stiamo discutendo ora è più che possibile, già quasi già in atto, cioè si sta studiando per arrivare a questi strumenti, se non già ci si arriva, ecco. Guarda, io mi ricordo, allora sicuramente ti dico una cosa parziale, quindi non è da prendere come il Vangelo, ma io mi ricordo ero alle superiori e Google fece uscire l'applicazione Ingress, non so se l'hai mai sentita. No, non l'ho mai sentita. Praticamente era la prima applicazione dove tutto il mondo, quindi era mappato, in realtà aumentata, sostanzialmente era una versione di Google Maps, ma fatta a gamification, che è un altro termine che invito tutti i nostri ascoltatori ad andare a approfondire. Insomma, cioè, sulla base di queste delle mappe di Google, tutto il mondo era diviso in due schieramenti. Adesso non mi ricordo i nomi, ma uno era di colore verde e l'altro blu, tipo gli illuminati da una parte, non lo so, non mi ricordo perché ero piccolo. Ma sostanzialmente, come funzionava il gioco? Tu ti dovevi muovere nel mondo reale, no? Andare col GPS attivo, dovevi muoverti nel mondo reale vicino al monumento, al punto di interesse, a quello che voleva Google, e stare lì a premere sullo schermo, non mi ricordo in che modo, per conquistare Ma questa roba virtuale e renderla meno di appartenente alla nicchia, tua passione. meno di nicchia. Fino a qualche anno fa c'era la moda di Pokémon Go, che era E una tu lo cosa sai che molto simile. Pokémon Go, È esattamente, tu una lo cosa sai che molto Pokémon simile. Go è stato realizzato con quel database, di quell'esperimento di Ah, tanti anni fa? ecco, non lo sapevo. Esattamente. Quindi nel momento in cui tu hai iniziato questo aspetto, no, di poter influenzare, vabbè, Pokémon è il franchise con più vendite del mondo, quindi ci Chiaro. sta. No, ma Tutti l'abbiamo provato Pokémon Go certo. perché, cioè, voglio dire, Eravamo e curiosi. quindi, Eravamo certo, curiosi. ma il fatto cos'è? Che nel momento in cui, no, isoliamo il principio dal caso concreto, nel momento in cui, no, qualcuno è in grado di influenzare una grande massa di persone, no, ad adottare un certo tipo di comportamento, addirittura nel reale, no, non più nel virtuale, e beh, questi sono soldi, questi sono, immaginati, non lo so, stai utilizzando il navigatore satellitare per tornare a casa o per andare in un luogo che non conosci. E l'intelligenza artificiale ti avvisa, guarda che tra 200 metri c'è questa catena di ristoranti, eccetera, che fanno delle cose che ti piacciono perché io ormai ti ho profilato e so che tu 2 ore fa hai cercato una marca di birra piuttosto che una di cibo e io ti ho incrociato i dati, ho trovato un ristorante che te li fa, te li offre, vai qui. Questa roba qui, no? Quindi di isolare. Anzi, scusami, di creare un bisogno prima ancora che tu fisicamente lo percepisca, è una miniera d'oro. Poi noi parliamo con i Pokémon sono bellissimi, a tutti piacciono, muovono tanto, tutti vanno lì prendono addirittura, no, facevano i pulmini, mi ricordo, all'inizio, per andare a catturare i Pokémon leggendari in tutta Europa. Ricordo che Fantastico. c'era anche un mio. Forse, se non sbaglio, c'era un mio collega che si faceva dare gli smartphone all'università di altra gente, che poi lui faceva il giro della città in bicicletta e li catturava per tutti quanti. C'erano pure questi, un articolo, mi ricordo, un servizio del telegiornale dove parlavano di questi nuovi lavori, no? Il dog sitter che andava a fare catture per tutti. Vabbè, comunque. Fantastico, fantastico. E adesso ci sono i social che sono abbastanza, no? Perfezionati, sofisticati e controllati, anche lì tu immaginati stai su Instagram, Sì. pubblichi delle foto perché a parte che anche lì mi devi spiegare questa cosa secondo la quale tu le foto lì le pubblichi per te stesso, allora te le tieni sul cellulare, non hai bisogno di farle vedere al mondo intero. Ho Cioè, capito. però questa è una mia visione personale. Un domani il fisco può venire a dire: ma tu ti fai le foto con le supercar in posti con hotel extra lusso, ma io vedo qui che la tua dichiarazione dei redditi e tu dichiari 10.000 euro all'anno, c'è quel quadra che non cosa, come mai? Chiaro, chiaro. Capito? Beh, parliamone. Parliamone. Proprio su questo volevo parlare. Cioè, chi non lo sa, un progetto di portafoglio digitale, ecco, è già nei piani di uno dei nostri ex ministri, almeno ex amministratore delegato, team, il nostro fantastico Colao. Eccolo lì, con l'opera vegliavo. che già 2 anni fa, se non mi ricordo male, propone, con i fondi ovviamente presi dall'Europa, l'implementazione di tutto questo, di questo portafoglio digitale, come lo chiamano loro, dove andranno a inserire tutto quello che riguarda la questione sanitaria, fiscale, e chi più ne ha più ne metta, perfino quello che sarà la moneta digitale. Appunto di questo, cioè la moneta digitale. Antonio, ce ne puoi parlare un po'? Perché si sentono parlare tantissimo di blockchain, di tutte quelle cose fantastiche, di queste criptovalute. Cioè, la moneta digitale non è un po' una criptovaluta o c'è qualcosa di diverso fra le due? Cioè, uno che come me sotto questo profilo non se ne intende e non capisce molto. I due strumenti Diciamo, ho sono capito. simili? Oh no. Dipende dall'implementazione, ti direi. La blockchain è un sistema complesso per realizzare un registro, sostanzialmente per mettere d'accordo delle parti che tra di loro non si fidano su fatti condivisi comuni. Questo Ok. è il problema. E tutta la matematica e l'ingegneria che c'è dietro e la complessità è dovuta al fatto che tu, tra gente che non si fida, Si devi fidano creare un loro. registro condiviso dove ci sono scritte le stesse cose. Ok. Ma se io sono un ente centrale, nulla mi vieta di utilizzare un database ed evitare la blockchain, totalmente, per Ok. intenderci. Nel Quindi momento diciamo in cui io sono che un privato, non devo rendere conto a nessuno. Quindi io da tecnico sconsiglierei l'approccio blockchain per un ente centrale per il semplice motivo che non ho bisogno che la blockchain nacque, almeno in teoria, proprio come struttura dati per poter creare un registro condiviso appunto tra gente che non si fida, in modo che i dati che vengono scritti appunto mediante questo sistema fossero verificabili da chiunque senza doversi fidare della parola di un terzo. ok, Mettiamola così. Ecco. insomma è un modo per prevenire che, cioè, uno da una parte per poter magari finanziare delle operazioni che sono anche un po' più o meno losche o del genere, Sì, e e da qui, dall'altra sai, per mi garantire. ricollego alla malafede di cui parlavamo prima. Se non ci fosse la malafede, non ci sarebbe bisogno di implementare soluzioni di Ma sicurezza. anche da proteggersi dallo Stato, quindi operazioni di dubbia Sì. natura fra stati, ecco. Sì, Ecco, quindi tu senz'altro. dici, invece la moneta digitale che molto probabilmente ci salterà addosso nei prossimi anni anche con l'euro digitale, che anche questo non è più solo un progetto su carta, le proposte ci sono già, cioè, perdon, non è più solo un'idea, ormai ci sono le proposte su carta anche in Parlamento europeo, c'è già un'idea di una struttura, di come implementarlo pian piano e si sta già discutendo, si stanno facendo già le prime riunioni sotto questo profilo. Sì, sostanzialmente sì, si sta soltanto cercando il modo teatrale di introdurre il sistema. Ci avevano provato durante la pandemia dicendo che chi usava il denaro contante infettava, veniva infettato, Certo. no? Poi si sono resi conto che la gente usava le carte di credito contactless e la cosa non ha preso tanto piede. Però un indomani ti diranno che il denaro è sporco, è cattivo, è uno strumento del diavolo. O che finanzia Putin, chiaramente. Ovviamente, e quindi sai che ne so, no, veramente cioè, bisognerà risparmiare sui costi della carta. Quindi basta abbattere gli alberi per stampare i soldi. Non lo No, so, potrebbero dire. Adesso non vorrei dare un'idea al governo, no, vabbè, sostanzialmente. diciamo che secondo me ce ne hanno già fin troppe su come. Esatto. Ma perché questo? Perché la gente non ha perso il senso critico. È questo il fatto. Se andavamo, fino a pochi mesi fa, anni fa, andavamo tutti sul lato sinistro della strada e non sul destro perché lì c'era il virus. Voglio dire, Perché eravamo in Sicilia, giustamente, e c'era questo sindaco esatto. particolarmente. Se questo è, se no, se il buongiorno si vede dal mattino, io dico che possono mettercelo in quel posto, in qualsiasi momento. E nessuno andrà mai a verificare, insomma. Ecco, un'altra cosa sotto questo punto di vista. Cioè, alla fine delle finite sembra quasi che la tecnologia sia solo utilizzabile in questa maniera, cioè da quella parte di potere che vuole prendere ancora più potere e controllare completamente la vita dei poveri cristiani che non sanno come difendersi. Ma io sono convinto che la tecnologia sia solo un mezzo e si possa usare anche in un'altra maniera. Secondo te, veramente c'è questo collegamento, questo assioma fra tecnologia o demonizzazione, per metterla meglio, della tecnologia, o invece c'è la possibilità di ancora adesso di utilizzarla in maniera, passami il termine, per il bene o corretta, ecco. In realtà ti sei già risposto, perché in questo mondo duale il bene e il male sono concetti che, ahi noi, esistono. E quindi tu un coltello lo puoi utilizzare per tagliare il burro oppure per ammazzare una persona. La colpa è del coltello o di chi lo usa? Ok. Quindi è un po' questo. È chiaro che, come ti dicevo prima, la tecnologia. Esuliamo per un attimo, quindi usciamo da quella logica per cui ci sono gli ultrafissati che implementano per il gusto di andare avanti la tecnica di Galimberti, okay, che si autoalimenta, e rimaniamo sul basico. È chiaro che con l'innovazione, con l'auto, io parlerei di automazione più che comunque di intelligenza artificiale, possiamo automatizzare dei compiti. Per facilitare la vita della gente, e quindi si può usare tutto questo a fin di bene, per esempio, lavorando di meno, facendo fare più cose alle macchine, eccetera. Il problema è che viviamo in un sistema, economico, sociale, eccetera, manipolato e marcio, praticamente fino al midollo, Ok, ma e dalla punta della piramide, che quindi anche qua, bisognerebbe puntare a un uso più consapevole. Che poi è quello che non si sta facendo adesso, perché non la gente non ha consapevolezza di questa tecnologia, ma di ecco. per sé non è cattiva o buona, dipende da chi la usa. Ok, ma la situazione attuale, nel senso, buona parte dei social, ad esempio, come hai parlato prima, che implementano questa tecnologia o comunque di tutti questi strumenti sono in mano a un oligopolio, se non dire un monopolio, perché alla fine le società o comunque i proprietari di questi mezzi si contano, sono pochi, ecco, e sono tutti allineati verso una direzione. Quindi c'è quello che stavo cercando di dire, sembra quasi che sia la tecnologia sia diventata un mostro malvagio grazie a questa situazione. Però chiaramente sono convinto che si possa utilizzare come la stiamo per adesso. Per me, fino a qualche anno fa era impossibile fare un'intervista vedendo in faccia una persona. Cioè, io mi ricordo già nei primi anni 90 non era una cosa così, così semplice. Oggi abbiamo strumenti tecnologici fantastici. Una tecnologia che potrebbe anche aiutare a livello ad esempio, della chirurgia o per protesi ad alta tecnologia, come potrebbero essere quelle cardiache o anche quelle motorie. Perché ad esempio un braccio che riesce a percepire gli impulsi elettromagnetici degli ex nervi o delle terminazioni nervose e riesce veramente a muoversi come un braccio umano sarebbe qualcosa di fantastico e non è così lontano perché i primi prototipi ci sono già. Immaginati Elon Musk, no, con la Neuralink, che prometteva di risolvere le disabilità, o far riacquistare la vista o l'udito alle persone impiantando nuove terminazioni nervose collegate ai chip nella testa. Di Ecco. per sé non è una cosa buona o cattiva. Tu immaginati una persona che non ha mai avuto l'opportunità di vedere, di sentire, che okay, poi non è detto che sia meglio. Vedere, sentire, muoversi, non si sa, perché lì entriamo in un aspetto più spirituale, dove magari tu non hai dei sensi, ma vai ad affinare altri che Certo. ti sono rimasti e magari non vuoi fare il cambio Ho capito. sostanzialmente. Però facciamo finta che si possano risolvere questi problemi. Non vedo tutta questa malvagità di per sé. No, Il cioè, problema è che nel sembra momento in cui, no? ti mettono qualcosa nel cervello, uno dice, beh, calma, cosa stai dicendo, Esatto, però no? sembra quasi che molta gente faccia di tutta l'erba un fascio e incolpi quasi la tecnologia e la soluzione per questa, soprattutto negli ambiti contro queste implementazioni, o nel senso tutto quell'ambiente in cui siamo stati, sia io che te, cioè di tutti questi gruppi. Contro o della opposizione, se vogliamo chiamarli così, sembra che punti il dito contro la tecnologia. L'unica soluzione è ritornare in mezzo alle montagne con gli animali o coltivando il proprio cibo e staccarsi dalla società in completo isolamento, un po' come degli eremiti. Secondo me. È una concezione un po' sbagliata. La connettività può essere utilizzata in maniera proficua. Secondo te è possibile mantenere un sistema e rendere magari un po' più libera l'utilizzo di questi sistemi e meno oligopolio? Sì, semplicemente sì, ti direi. Ok. Il problema è che queste risposte sono così stupide, così banali, così semplici, che ci vuole un genio per capire la loro semplicità, scusami. Ok. Penso che sia così, perché alla fine, come ti dicevo, nelle giuste mani una tecnologia può essere utilizzata assolutamente a fin di bene. Però non la facciamo scegliere all'intelligenza artificiale le giuste mani a sto punto. Ma a quel punto bendiamoci, estraiamo una pallina colorata da una ciotola e forse va meglio. Ecco, dall'altra parte invece c'è, e ritorniamo in ambito super complottista, soprattutto per i nostri ascoltatori fedeli che apprezzano il topic, come si direbbe, Certo. si parla di città di 15 minuti. Con quello che abbiamo parlato con quello con cui ci siamo scambiati circa un'oretta di intervista adesso, cioè, a me sembra molto realizzabile questa opzione, soprattutto nei centri urbani, cioè queste città dove il riconoscimento facciale biometrico è effettuato tramite queste telecamere messe ogni angolo. Guardiamo Firenze che se ne è aggiunte circa 300-400 nell'ultimo anno. Io l'ultima volta che ci sono andato, veramente ogni due passi se ne vede una in cielo o attaccato a un edificio. E dove, per chi non lo sa, questa città, anche l'accesso al supermercato è controllato tramite queste telecamere che riescono a rintracciare perfino il tuo conto corrente, cioè questo sarebbe il primo studio, il primo supermercato l'hanno fatto attestato a Londra e quindi si fa un pagamento contactless, come piace dire ai nostri complottisti. Ecco. Secondo te, è dove sta puntando adesso la tecnologia, soprattutto per i centri urbani, o è ancora impossibile? Ma allora, questo nello specifico non ti so dire. Quel che è certo è che se tu vai a vedere, come dire, il susseguirsi degli ultimi eventi, noi abbiamo una serie di episodi. Come saprai, la nuova direttiva dell'Unione Europea sulle ristrutturazioni per l'efficientamento energetico, poi abbiamo avuto la pandemia e i problemi economici che hanno portato alla chiusura di diversi negozi storici e di attività 420.000 commerciali, imprese. l'online, no? Perché oggi è molto più comodo comprare su Amazon piuttosto che far sopravvivere il fruttivendolo sotto casa, Esatto. eccetera. Nel momento in cui io vado a impoverire l'economia reale, è chiaro che ho l'attacco alle spiagge da parte sempre dell'Unione Europea, così Certo, ci certo. dicono anche che siamo belli di destra, che vogliamo essere sovranisti, no? Così non ci facciamo mancare niente. Chiaro. Ecco che l'insieme di tutte queste di tutti questi episodi casuali, dai, diciamo che è tutto un Sì, caso, così non casuali dal scomodiamo nessuno. 1992, con l'unione, con la Esatto. moneta unica, ecco. Esattamente, è chiaro che nel momento in cui io, multinazionale, io Bezos, che durante la pandemia ho aumentato di diverse decine di miliardi il mio patrimonio personale, posso tranquillamente decidere, dato che in centro di una a Firenze, a Milano, a Roma sono falliti tutti, di comprarmi queste cose, questi edifici, le strade, tutto quello che è un bene comune, no, del pubblico, e farci quello che voglio. E a quel punto, se io compro tutto, come se fossimo dei personaggi del Monopoli che vogliamo ingrassare, io compro con questa bulimia di acquisti compulsivi. È chiaro che quando è tutto mio ci posso anche spianare tutto e fare un grande parcheggio per un centro commerciale. Nel Fantastico. caso della città da 15 minuti siamo sempre lì, capito? Solo che loro te la vendono dandoti l'illusione della comodità. O del green anche tra le altre cose, perché la nuova spinta dopo la pandemia, dopo tutte queste vaccinazioni, tutti questi obblighi imposti dall'alto, o comunque del programmino che ci scrivono ogni anno quelli europei col PNRR, ormai sarà sempre più così. Si arriverà secondo te alla situazione di una società divisa in due, cioè quelli che accetteranno qualsiasi cosa pur di partecipare a vivere in questi centri, comunque in queste città, e invece quelli che decideranno a tutti i costi di essere liberi e di rinunciare a queste comodità, o dici che non abbiamo speranze e cederemo tutti? Guarda, io ti dico una cosa anche qui provocatoria, perché questo è un po' il mio stile. Io firmerei domani mattina per avere una società divisa in due, perché oggi è divisa in 150.000 parti, perché ognuno col proprio feudo. Se già fossimo solo in due fazioni, ci sarebbe un livello di un'entropia, no? Per dirla anche in maniera esoterica, a livello, cioè diciamo proprio migliore. Per il semplice fatto che ci sarebbero due modi di vivere e non 150.000, così come faccio questa analogia con i movimenti del dissenso, e quindi vuol dire che si sarebbe tutti a un livello di consapevolezza più alto. Quindi tu Capito? spingeresti l'acceleratore, in poche parole. Ah, e beh, su questo io ti dico una cosa: se tu immagini la nostra società come la rana bollita, no, alla quale hanno alzato la temperatura nel tempo sempre di poco, sempre di poco. Se tu questa roba la trasponi ad una rana che viene gettata in un'acqua subito ardente, fidati che quella rana il colpo di reni lo fa per provare a salvarsi. E allora io ti dico che da questo punto di vista forse si stava bene quando si stava peggio. Ecco, così Cioè, momento boomer. ecco, cioè, per dirla invece da partecipante ai movimenti contro, si stava meglio quando c'era una causa di unione, ad esempio che quando è stato il Green Pass, c'era più unione, Certo. più unità. Adesso invece grazie all'abilità anche di quelli che stanno al potere e dall'altra parte anche all'ingenuità di quelli invece che lo subiscono questi poteri, non si riesce a trovare un fronte comune su cui combattere. Però, È così. ma allora a questo punto è inutile anche combattere, se mi stai dicendo. Ma guarda. Dipende. Questo perché noi abbiamo visto, eh sì, perché alla fine noi proprio, come posso dirti? Questo è un argomento complesso perché collega molti argomenti e molti aspetti anche di psicologia, c'è veramente molto da approfondire. Diciamo questo. Da una parte possiamo dire che forse è meglio che sia finita così perché abbiamo scoperto in quelle poche persone che sono rimaste, diciamo, vive nella battaglia, coloro che davvero ci tenevano all'idea, no, che di mondo che avevamo rispetto a quelli che, come hanno diminuito l'intensità delle restrizioni, se ne sono tornati alla loro vita o comunque mandando tutti a stendere, diciamo, anche con i problemi dei gruppi del dissenso che abbiamo osservato negli ultimi mesi. Quindi pochi ma buoni, è meglio così perché alla fine sulla lunga vedi le persone, eccetera. Però questo è un discorso umano. Invece dal punto di vista politico è chiaro che avere il nemico comune non è più sufficiente, questo ti dico io, perché se non c'è qualcosa che ti appassiona, Se non c'è un'idea di mondo che, per la quale tu metteresti veramente a rischio la tua vita, diciamo, è difficile che alzi il culo dalla sedia e ti muovi per fare qualcosa. Chiaro, E, chiaro. ed ecco perché, cioè diamo anche un bit in più di informazione, ecco perché tra i movimenti del dissenso sono emerse delle figure, tra l'altro anche abbastanza anziane, ok, che puntano a riproporre degli schemi, delle soluzioni vecchie per problemi nuovi, ed Ah, ecco chiaro. perché la maggior parte delle persone che magari la possono pensare come noi, ok, dicono: ah, vabbè, tanto c'è lui, a posto, fanno tutto loro, quando in realtà è soltanto un'inutile ammucchiata di gente che parla a vanvera. Sì, questa è un'impressione che condivido con te, anzi, più che un'impressione ormai si è trasformata in una realtà di fatto, perché abbiamo assistito proprio a un riciclaggio delle figure. Prima si urlava sui palchi, si cantava al solito quelli come noi non molla mai, e poi alla fine zero, cioè perché invece di utilizzare gli ultimi 2 anni e mezzo, trattino tre, perché ormai siamo a maggio 2023, è quasi più di 3 anni che va avanti questa storia, per avere questi 3 anni per organizzarci, per dare un nome, per costruire un'alternativa, e invece siamo stati qui a fare il protagonismo, a vendere il nostro libro, a vendere il nostro spettacolo. E quindi io ti chiedo, come ultima domanda della nostra intervista, che ormai va avanti quasi da un'oretta, secondo te ha anche portato del buono questo dissenso? Ci ha iniziato a far vedere le possibili future, le figure che potrebbero dare una svolta a questo movimento contro, o c'è da rifare tutto da capo? Ma guarda, forse tutte e due perché nella vita uno progredisce in base agli errori, ai fallimenti, alle volte che ti rialzi, eccetera. Quindi noi dovremmo, secondo me, provare a costruire un'idea nuova partendo dall'esperienza passata che non è totalmente fallimentare. Diciamo una cosa populista, diciamo nell'ambito complottista nostro. Se vogliamo, perché quantomeno siamo riusciti a fare rete. Che poi sia una rete che faccia pena, o comunque che non sia ancora all'altezza del compito, no, di tenere ferma una comunità, siamo d'accordo. D'altra parte, stiamo vedendo come, per mancanza di idee, di voglia, e di sostanzialmente tutto quello che uno può mettere, no, che può andare dal fatto di essersi stufata di questa situazione, no? Voler tornare alla vita normale piuttosto che festeggiare, no? Per compensare i momenti un po' così. Diciamo che per dirtela in maniera un po' più positiva, qualcosa, seppur in maniera con le toppe, siamo riusciti a farla. Ok, cioè, almeno dai, abbiamo riconosciuto qualcosa, anch'io lo riconosco, cioè, non tutto è da buttare via, cioè, ad esempio ci siamo incontrati anche fra persone che poi alcune le abbiamo perse, altre invece ci portiamo, ecco, in tasca, e ogni tanto ci risentiamo e riusciamo a fare qualcosa. E soprattutto, cioè, ci Esatto. siamo resi conto che si può fare, cioè, c'erano dei limiti che ci eravamo autoimposti, cioè. È stato bello, anche tu, Antonio, hai fatto parte dello staff del Festival Primavera Culturale. È stato bello riuscire a tirare insieme un evento organizzato solo da studenti e senza supervisione di un ministero della cultura o comunque di qualche autorità, e soprattutto tirarlo, organizzarlo in piena pandemia e riuscire ad avere anche una decente partecipazione. E, Senz'altro. ci ha regalato delle esperienze e ci ha insegnato anche molto, cioè veramente si può costruire una realtà. Se prima ci facevamo dei dubbi sulla possibile riuscita, ci ha tolto questo velo dicendo che alla fine delle finite basta alzare anche un po' il culo e le cose si fanno, no? Guarda, io ti concludo dicendoti sostanzialmente due cose. Innanzitutto, chi fa da sé fa per tre, quindi smettiamo, togliamo il modello della delega che evidentemente è servito soltanto per creare una massa di utili idioti. Ok? Ok, Poi fantastico. comunque dobbiamo liberarci comunque di quelle figure pesanti che nell'ambiente del dissenso stanno semplicemente facendo l'effetto 5 stelle quando nacquero sostanzialmente, quindi incanalando il dissenso verso un binario morto, così che poi la gente semplicemente perda qualsiasi interesse, anche speranza, che però non Roberto, speranza verso, diciamo, un futuro migliore. Quindi se tu, se riusciamo, il combinato disposto di queste due cose, secondo me ci potrebbe portare a un miglioramento della situazione. Però c'è da lavorare molto e ad oggi io la vedo possibile come cosa, ma lontana. Vabbè, io sono convinto che le forze ce le abbiamo, anche se siamo pochi, ce la faremo perché sono un ottimista. No, porta sfiga, cioè dire ce la faremo, fermo. Andrà tutto bene, ecco, Cioè. l'Italia ce la farà e metteremo ovviamente un ministro dell'economia molto capace come il nuovo sindaco di Roma, chiaramente. Tra le altre cose, non l'ho tirato fuori a caso perché è stato al centro di una polemica recentemente, appunto, per l'ampliamento della zona verde di Roma, e quindi della ZTL, ecco, per parlarci chiaramente, e l'hanno quasi linciato vivo negli ultimi 2 giorni, ecco. Niente, Antonio, ti ringrazio per essere stato qui con noi un'oretta. È stato molto interessante. Sicuramente ci saranno altre volte. Dammi una conferma. Ok, Senz'altro, senz'altro. ci sentiamo. Ringraziamo anche gli ascoltatori per essere stati con noi in questa intervista con Antonio di Radio Disturba Popolo. Ci sentiamo prossimamente. Grazie per l'ascolto. Grazie, ciao a tutti.